Scusa, però i giornali sportivi, ma che titoli fanno? Miracolo Balotelli. Beh, ha fatto un gol della Madonna. Ma cosa vuol dire? Ma cosa miracolo? È il suo mestiere. Cioè, vabbè. Non è che quando Pierluigi Battista scrive un fondo sul Corriere della Sera è miracolo Pierluigi Battista. Ho capito, ma se Balotelli scrivesse un fondo sul Corriere, allora potrebbero scrivere miracolo Balotelli. Ma se no. Chiedo asilo. Pananana Panathinaikos. Ecco, in Grecia giustamente adesso stanno dicendo Patanana Panathinaikos, che vuol dire bentornati a Chiedo Asilo. Bentornati a Chiedo Asilo. Un saluto da capo. È un saluto da Drago. Comunque oggi possiamo dire anche in greco che è ufficialmente estate. Estate, quindi in greco si dice? Non lo sai, nessuno lo sa. Vabbè, tanto più che adesso le scuole sono anche chiuse in tutta Italia, quindi, credo. Restano solo i maturandi, però anche loro sono agli sgoccioli ormai, capito? Invalsi, sono lì un po' invalidi anche. Che i maturandi esistono, soffrono insieme a noi. Ecco, sono maturandi solo sulla carta però, perché poi nella vita vera quanti di questi maturandi si riveleranno maturati al 100%? Cosa vuol dire? L'importante è che superino l'esame, no? Dopo si vedrà. In teoria è così, però... No, in pratica è così. No, a forza di pensare a passare solo gli esami senza maturare davvero, siamo il paese che cresce più lentamente in Europa, è quindi colpa dei ragazzi del liceo. E di chi è la colpa, scusa? È stata tua la colpa, allora adesso che vuoi? Adesso la colpa è mia. No, la colpa è di tutti. Volevi diventare come uno di noi. Ma di voi chi? Ma per carità. Non so gli accordi quei giorni che eri un burattino ma senza fili. Ma non è così, vabbè. E adesso invece i fili c'è. Vabbè capo, ho capito. Con te e con tutti quanti le discussioni finiscono sempre in canzonette. Ma vabbè, dai. Baby dum bum bum. Baby dum bum bum. Sono solo canzonette. Lo mettete nello stretto e non toccate il mio tetto. Settimane che si continua a parlare di biscotti. Vabbè, si è parlato di biscotti. Che vuol dire due squadre di calcio che si mettono d'accordo sul risultato di una partita da giocarsi. Sì, il biscotto poi è stata tutta un'inutile buffonata perché alla fine non c'è stato nessun biscotto. Sì, ma sai, io però ho letto la controinformazione. Vabbè, come al solito. E dice che tutta sta roba del biscotto era solo una trovata pubblicitaria. Come una trovata pubblicitaria? Sì, ma di chi? Perché chi c'era dietro tutto sto parlare di biscotti? Che ne so. Chi c'era, Drago? Non lo so. Wunderwaffer. Wunderwaffer. Ma come? Certo, infatti le vendite di Wunderwaffer dei giorni scorsi sono aumentate in modo esponenziale. Ma scusa, ma c'ho perché? Qui il report. Ho capito, ma si parlava di biscotto, potevano parlare di wafer. Ma perché la parola wafer in italiano non rimanda all'accordo spartitorio come invece torta o biscotto. Ma vabbè, un biscotto non ho mai sentito prima. Ma sì, ha funzionato bene lo stesso. Il nostro sponsor è stato l'unico titolo del Fuzzy Mib a comportarsi bene in queste giornate desolate in cui tutti vanno male. Vabbè, adesso che però il campionato europeo è esaurito la fase a gironi, ipotesi di biscotto non ce ne sono più, perché o sei dentro o sei fuori. Come farà Wunderwaffer a mantenere alto l'interesse su di sé? Vabbè, adesso l'ipotesi è quella di chiedere a Schweinsteiger della Germania di cambiare nome in Wunderwaffer. Ma no, ma come? Sì, così sulla maglietta dovranno scrivere Wunderwaffer e la pubblicità è sicura. Vabbè, no? Ma io non credo che uno come Schweinsteiger rinuncerà al suo nome, scusa. Ma, intanto tu sai cosa vuol dire Schweinsteiger in tedesco? No. Vuol dire cavalca maiali, oppure arrampica maiali. Vabbè, ho capito che vuol cioè dire colui quello. Che si arrampica sui maiali. Cosa vuol dire? Il suo nome. Non vuoi che non si vergogna a chiamarsi Bastian Schweinsteiger, cioè Bastiano cavalca maiali. Vabbè, ognuno si chiama arrampica maiali. Secondo te non preferirebbe essere chiamato Bastian Wunderwaffer? Ma no, ma è uno, anche Stefan Wunderwaffer, cioè che più famosi del mondo, non può cambiare nome da un perché? Momento all'altro, è come se Cristiano Ronaldo di colpo cambiasse il suo nome nella marca di un eyeliner. Perché l'eyeliner? Quando hai a che fare con i metrosexual, l'eyeliner è d'obbligo. Oh yeah. I'm just a sweet transvestite. From metrosexual Portugal. Obrigado. 30 de boca, 50 l'amor. Che sonno. Chi sei? Homer Simpson. Giovedì a quest'ora è un sonno. Come mai proprio il giovedì? Perché a quest'ora? Perché giovedì è il giorno cuscinetto, drago. Prima del venerdì. Quindi mi fa venire un sonno. Il cuscinetto ti ispira un senso di cuccia. Hai detto la parola giusta, la cuccia. Ma no, dai. No, tu non c'è, tu nella cuccia hai fatto la pipì, nella cuccia nuova. Guarda che poi già te che l'ho detto. Vabbè. Quindi adesso che fai? Dormi a quest'ora, non ho capito. E ora, bambini. Oh, che combinazione, hai visto? La porca vacca. Cosa c'è adesso? È la campanella, no? E adesso sono sveglio, completamente sveglio. Ma come eri mezzo collassato? Come, un attimo come fa. Il caffè, capito? No, non è possibile. E prima della campanella ero così, adesso c'è come un caffè, come due caffè. Ma scusa, era la campanella del sonnellino, adesso è il momento di dormire, quindi sì, dormi. Sì, ma dopo la campanella non ho più sonno. Ma certo che sei un tipo difficile, hai come sonno. Come quando bevo il cappuccino la mattina, dopo. Vabbè, ho capito, non è che ti viene sonno. No, però dai, sei il tipo difficile, perché quando bisogna essere svegli hai sonno. Quando invece bisogna dormire ti svegli. Vabbè, io faccio il contrario, perché non voglio che si dica cosa devo fare, cosa non devo fare, quindi così. Se la metti così, allora vai a vivere su un'isola deserta, vedrai che nessuno ti dirà più cosa devi fare, cosa vuoi fare. Magari. Adesso però dormi. Non ho sonno. Ma è giovedì, giorno cuscinetto. Vabbè, pensa se non ho sonno. Conta le capre, funziona sempre. Capre più cuscinetto, sono perfetto. Oh, ma qua non ci sono più le ricette, dove sono? Quali ricette? Le ricette di Marta Payne. Infatti è stato boicottato il sito, cioè la preside ha chiamato Marta Payne nella scuola scozzese. Bambina che è pubblica Payne, le sue ricette su non internet. Non le ricette, mette le fotografie dei piatti che le vengono serviti nella mensa scolastica. E quindi parlandone malissimo. Niente, quindi questa preside, incazzatissima, ha detto: Marta, vieni qui, l'ha chiamata in presidenza e le ha detto: tu non puoi più fare le fotografie. Perché? E perché non puoi più farle, lo decidiamo noi. E invece lei probabilmente di nascosto riesce lo stesso a fare. Ha avuto un blackout di 2 o 3 giorni sul sito, sul suo blog, neverseconds.blogspot.it, però adesso invece hanno incominciato a mettere le foto. Quindi forza Marta! Sì, ma le foto invece dei finocchi cotti del bambino Alberto? Quelle non sono ancora partite, perché sai, suor Dentona... Aia! Per forza! Ma no, perché sempre a me perché e mai a te? Evochi. Aia! La evochi. Ma bello, questo è veramente una cosa tipo, non lo so, discoteca 1983. È uno smartphone, drago. È inutile che continui a confondere. Tu sei ancora lì con i telefonini con i tasti. Ieri dovevi rispondere col touchpad. Niente, non ci riuscivo. Continuavo a schiacciare, a cercare di muovere quel tasto verde in direzione. Niente, non funziona niente. Invece tu riesci a fargli fare così. Come? Vado con questo e vado con questo.